Una diatriba storica fra coloro che studiano i problemi linguistici verte sulla significatività o meno di tutte le parole. Se nessuno, cioè, mette in dubbio che abbiano un significato parole come, che so, armadio, armando e armadillo, c'è chi dubita invece che abbiano significato parole come di, a, per, eccetera, eccetera. Più di un linguista ha teorizzato l'esistenza nelle varie lingue di parole piene e parole vuote. A torto ha teorizzato questa esistenza. A torto perché intanto se certe parole fossero davvero vuote non si capirebbe perché siano diverse l'una dall'altra. Ne basterebbe una, sempre uguale, no? Visto che di significato non ne dovrebbe avere. E poi, a torto perché è stato variamente dimostrato che a ognuna di queste parole, se non oggetti o cose nel senso empirico del termine, è possibile far corrispondere diverse operazioni mentali cui è possibile a sua volta far corrispondere eventi neuronali ben individuabili. Per rendersene definitivamente conto basterebbe andare in cerca di saldi in via Pier della Francesca. Nella stessa vetrina dello stesso negozio campeggiano infatti due cartelli che reclamizzano la loro eccezionale offerta. Sul primo cartello c'è scritto boxer da uomo 13.000. Implicito che il 13.000 si riferisca alle lire e non alla misura. Sul secondo invece c'è scritto boxer uomo 7.990. E così i linguisti più retrivi sono sistemati. Il da ha significato e valore il da. In quel contesto vale per l'esattezza 5.010 lire.